Cosa dovete fare? Non è che dovete fare un compito di italiano. La domanda è questa: quali sono le problematiche più grosse che si vivono? Ma a partire dal paese in cui vivete, poi la regione in cui vivete, la nazione in cui vivete e naturalmente poi in relazione al resto del mondo, no? Quindi, per quello che avete percepito sinora, ma vi prendete degli appunti schematici. Non è che dovete mettervi a scrivere. Ecco, quindi quali sono, secondo voi, i problemi più urgenti che vive l'umanità a partire dal luogo in cui vivo, quindi il paese in cui vivo, la città in cui vivo, la regione in cui vivo, la nazione in cui vivo, e poi su una scala invece molto più ampia, planetaria. E li discutiamo, insomma, quelli che vedete, d'accordo? Prendete un appunto schematico e poi apriamo la discussione. Vi ripeto, importantissimo sarà ascoltare quello che gli altri dicono e prendere a sua volta un appunto su quello che le parole degli altri vi fanno venire in mente mentre parlano. Se qualcuno di voi comincia a parlare, la nostra mente cosa fa? Si attiva quando ascoltiamo qualcuno parlare, no? Quindi cosa succede? Che mentre un altro sta parlando, la nostra mente è attraversata da un flusso di pensieri, che possono essere domande, per esempio, che vi fa venire in mente l'altro, oppure associazioni di idee. Vi fanno venire in mente, ecco, è importante prendersi un appunto, oppure desiderio di aggiungere qualcosa, di integrare il discorso dell'altro, aggiungere qualcosa a quello che l'altro sta dicendo, d'accordo? Oppure potrebbe essere che siete in conflitto con quello che l'altro sta dicendo, non siete d'accordo. Prendete un appunto su tutte queste cose. Se fate questo, la discussione si amplia, si fertilizza. Ecco, va bene? Quindi ora vi do proprio 1 o 2 minuti di tempo e prendete qualche. Quindi, prof, sia nel mondo che in Italia. Sì, ma a partire anche se vuoi dal paese in cui vivi, dal paesino in cui vivi, no? Iniziamo con qualcuno che... Dunque, ne avrete pensato più di uno di problemi. Chi interviene magari ne dice uno, di quelli che ha pensato, senza fare un elenco, quello che vi sembra più importante. Ecco, poi andiamo avanti e ascoltiamo. Quindi, chi vuole intervenire? Prego. Io ho pensato a un problema, che secondo me è più importante anche, è la mancata valorizzazione del proprio tempo. Questo perché noto che molte... La mancata valorizzazione del proprio tempo. Cioè tu dici il tempo che abbiamo per noi... Non gli diamo abbastanza importanza. Non gli diamo importanza, quindi rischiamo di sprecarlo. Sì. Sì. Lo sprechiamo al primo posto di tempo. Ad esempio, se notiamo l'utilizzo del cellulare, che secondo me è lo spreco di tempo più... cioè il tempo più inutile che utilizziamo. Se vediamo ad esempio nei social, all'incirca l'utilizzo medio del telefono è dalle 3 ore alle 4 ore per i giovani all'incirca. E se facciamo qualche calcolo possiamo vedere che ad esempio sono all'incirca 21 ore a settimana. 21 ore a settimana sono un giorno, cioè quasi un giorno, ma poi noi di giorno non è che utilizziamo tutte le 24 ore, perché la maggior parte del tempo lo spendiamo per meglio. Adesso che sono 8 ore, mettiamo, quindi è davvero tanto tempo, 21 ore a settimana. E quindi questo tempo lo dovremmo utilizzare in modo molto migliore, secondo me. In modo diverso, sì. Sì. Ecco, naturalmente se ascoltando volete intervenire nella discussione, vuol dire fare delle domande, eccetera, fatelo, ecco. Quindi tu dici sprechiamo una grande, enorme quantità di tempo dovuto all'uso del cellulare. Sì. Sì. Ecco, io via via faccio anche delle domande. Gli argomenti vedrete ora, magari passando un altro, li tocchiamo. Tutto serve anche per generare nella vostra mente degli interrogativi che rimangono attivi. Attivi nel senso che vi aiutano a pensare ulteriormente, ad approfondire, d'accordo? Ad esempio, potrei chiedere quali diversi usi si possono fare, si fanno del cellulare, no? E l'altra domanda è come mai accade il fenomeno che lui ha ora denunciato, come mai accade questo fenomeno? Se avete anche voi delle domande che vi vengono in mente ascoltando qualcuno, per esempio lui che ora ha parlato, fatele queste domande. Sono molto importanti le domande. Perché sono importanti le domande? Perché aiutano a pensare. Vi dico, chi è uno scienziato? Uno scienziato è uno che si fa magari una, due, tre domande che diventano importantissime per lui e ci lavora per tutta la vita. Non è che la risposta è sempre immediata, si cominciano a dare risposte, poi le domande portano ad altre domande. Prego. Io volevo parlare con Massimo. Sì. Secondo me ormai il telefono è diventato, magari un tempo il telefono serviva soltanto per quello che era l'uso essenziale del telefonare e basta, però ora secondo me il telefono comprende più funzioni di quante dovrebbe comprendere, cioè senza il telefono ormai può essere una televisione, può essere uno una lettera perché si deve messaggiare con i tuoi compagni, può essere uno svago perché ci sono i giochi, magari ci sono persone più prese e persone meno prese da vedere il mio gioco. E quindi io penso che ormai tutto quello che prima si faceva senza il telefono, ora lo si fa con il telefono per appunto comprendere tutte queste cose. Tipo un tempo si guardava la televisione per tanto tempo, per quando non avevi niente da fare, ora invece prendi il telefono e guardi il telefono, guardi Netflix, guardi quello che vuoi tu. Un tempo magari stavi a casa perché ti sentavo e non avevi come svagarti, come perché magari non avevi nei giochi, ora invece nel senso di tutte le poi il telefono può essere utile anche, poi dipende da come lo usi, può essere un utile mezzo di lavoro, un utile mezzo di sviluppo di lavoro, perché comunque molti ragazzi della nostra età questo cercano di sviluppare, comunque di provare a fare qualcosa per migliorare la loro vita, informazioni. Quindi se posso intervenire nella... mi pare che mentre lui denuncia un uso, diciamo, frivolo del telefono, una perdita di tempo, così come per distrarsi, ecco, il telefono come fonte di distrazione, all'interno del quale però si rimane un po' impigliati, possiamo dire così, e tu invece ci stai raccontando del fatto che il telefono ha tantissime funzioni, no? Alcune ce le hai elencate, ne potremmo trovare altre. Quindi anche qui potremmo dire sì, dipende dall'uso che uno ne fa, no? Prego. Dico, se il telefono è usato correttamente può essere anche una cosa positiva. Non per forza essere una cosa negativa. Certo, se io sto 8 ore al giorno sui social a fare nulla, è una cosa sbagliata, però se ti può anche perdere un po' del mio tempo per usare il telefono per, non so, per sentire amici lontani, oppure per fare delle ricerche, oppure per quelle dei documentari che possono essere anche dei film, si può dire, però anche un po' di cultura fa. Sì, posso frequentare anche le biblioteche attraverso i telefoni. Sì, posso avere anche informazioni importanti, fare ricerche e così via, come tu dici. Certo, certo. Va bene. Allora, sentiamo anche altre... Quindi questo, naturalmente, abbiamo appena sfiorato l'argomento, no? Perché è un argomento questo importantissimo che lui ci ha proposto. Vediamo se ci sono altre problematiche importanti nel mondo in cui viviamo. Chi vuole intervenire? Io ho scritto la poca sicurezza delle strade. Ok, vediamo un po' esplicita, sì. Ovvero che, diciamo, soprattutto si può dire nella regione, però anche proprio altre, anche fuori dall'Italia. Quindi nella nostra regione? Sì, soprattutto, sì. Però diciamo che questo problema arriva anche al di fuori della regione. Sì. Ovvero che ci sono strade con molti avvallamenti, con molte buche, oppure con molti pericoli che non vengono segnalati, e quindi diciamo che aumenta il rischio di stragi, no? Quindi, sì, di incidenti gravi, quindi dici, sì, certo. Anche perché è meglio tutelare, cioè uno che si mette in viaggio deve avere la massima sicurezza. La massima sicurezza. E poi c'è una delle buche, senti, per esempio per chi va in moto, ci sono delle buche, oppure degli avvallamenti, non so, per le curve improvvise a buio che non sono segnalate, tu dici. Il diritto, cioè, sì. Sì, qualcuno vuole approfondire questo? Cosa vedete per le strade che frequentate? Io sono d'accordo con lui, cioè secondo me io questo lo trovo dappertutto, qua, soprattutto nel nostro paese. Ogni strada che percorro c'è un dormino che non è coperto, oppure che ha posso dire, c'è un avvallamento, però il dormino è un pochino infossato mentre la strada è più elevata, quindi tu prendi il rumore, non te ne accorgi, magari anche se però il motore comunque si può rompere, se ti va bene ti rompe il motore, non vale tu come motore. Però ad esempio una cosa che vorrei aggiungere soprattutto è che in alcune strade tipo per andare a Vittoria, comunque quelle di alcune, un tratto di strada che fa Caucana Marina, mancano le illuminazioni. Ora io dico una cosa, se comunque è un tratto di strada trafficato come quello che di Comiso Vittorio di Caucana Marina, è giusto che le luci si mettano, perché c'è maggiore possibilità di fare un incidente. Se io devo andare in un luogo, devo spostare di sera e non vedo la strada che ho davanti, se non con le luci accese per andarci di guido, secondo me è una cosa sbagliatissima. Ci sono più segnalazioni, il comune sia di Santa Croce che di Comiso e di Vittorio se ne infischiano, perché non interessa, non hanno interesse. Sì, quindi tu denunci questa mancata manutenzione, sì. Vi dico quello che vedo anch'io, vedo per esempio che gli argini delle strade, cosa succede sugli argini delle strade? Spesso la vegetazione viene fatta crescere, viene lasciata crescere, no? E quindi si vedono questi argini delle strade con la vegetazione che man mano invade la carreggiata e la restringe, d'accordo? Fateci caso. Oppure ho visto molto spesso la spazzatura buttata sugli argini delle strade, enormi quantità di spazzatura ho visto buttata per le strade. Naturalmente anche qui dovremmo approfondire e capire il fenomeno e poi in una seconda fase saper fare anche delle proposte, come si può intervenire, cosa si potrebbe chiedere di fare. Poi c'è un'altra domanda che mi viene in mente, è questa. Quelli che ha indicato Flavio, vero? Quelli che ha indicato Flavio, cosa sono? Sono tutti lavori che vengono lasciati incompiuti. Cioè, c'è una domanda qui importante, ma non ci avevano detto che manca il lavoro? E perché questo lavoro non viene compiuto, fatto? Io avevo scritto tra le mie mani che... cosa hai scritto, Flavio? Allora sì, diamo la parola un attimo a Giada che la parola circoli. Ho scritto del lavoro perché comunque sia qua in Sicilia, sì. Tutto male, tutta qualità, c'è davvero poco lavoro, perché tipo io conosco tantissime persone che si devono lavorare tipo in Svezia, in Inghilterra per trovare un lavoro e non tornano, perché appunto è là, tutto fanno là, tipo. È importante quello che dice Giada, no? E questo ha a che fare con un'altra forma di emorragia, di spreco, che lei sta dicendo una cosa importantissima. Qui c'è un sacco di lavoro che viene lasciato incompiuto, eppure molte persone che magari si sono formate, che potrebbero fare quel lavoro, d'accordo? Lavori di tutti i tipi, non solo. Anzi, sarebbe importante chiedersi, qui c'è una domanda importante, quali lavori vengono lasciati incompiuti? Eppure lei dice, la gente va a cercare lavoro all'estero, va a lavorare per un altro paese, perché là quel lavoro glielo lasciano fare, compiere, d'accordo? Viene, cioè, remunerato. Giulia Alessio, che... Là quel lavoro viene... Là quel lavoro viene remunerato all'estero, qui invece si dice non c'è lavoro e cresce l'inoccupazione, la disoccupazione e così via. Grazie. Prego. Ecco, sì, che cos'è la fuga di cervelli? Tu come l'hai capito? Trovare impiego. Quando il piede il lavoro per conoscere, quindi vanno a vicino. Giusto, sì. Immaginiamo la situazione per cui tu diventi un fisico, un ingegnere, eccetera. E poi però non trovi lavoro nel tuo paese, nella provincia, nella regione, nella nazione in cui vivi e devi lasciare. E questa naturalmente è una forma di emigrazione moderna, no? Che colpisce anche il lavoro intellettuale. Grazie. Aspetta, aspetta, diamo la precedenza anche agli altri. Cioè, no, però solo per discutere. Sì, per non polarizzare la discussione è molto importante che tutti troviate il coraggio per intervenire, va bene? Anche dicendo poche cose, però è molto importante non limitarsi ad ascoltare, ma trovare dentro di sé il coraggio per dire anche poche cose, ma dite quello che pensate, va bene? Non dovete mai, invece dovete sempre evitare di pensare quello che ho da dire io è poco importante. Vi accorgerete che è sempre importante. Prego. Io volevo dire che secondo me questo problema dell'elevata disoccupazione in Italia e dell'immigrazione moderna, come ha detto lei, è da attribuire secondo me anche all'elevata tassazione che c'è in Italia. Io penso, intanto sappiamo che purtroppo la società di oggi si basa sul denaro, cioè sui soldi. Senza soldi non si fa più niente. Quindi secondo me il problema principale, oltre a non trovare lavoro, della maggior parte delle persone, di quello che penso io, perché se io dovessi pensare che un giorno, che Dio me la mandasse buona, in un anno dovessi fatturare questo 1 milione di euro, sì, e ne dovrei prendere soltanto 400.000 di questo 1 milione di euro, quando in Svizzera ne potrei prendere, se non circa 800.000 su 1 milione, sì, preferirei andare a lavorare per altri paesi, per il mio bene personale, e non perché è come se ormai fossimo ritornati a un tempo nelle medievali, quando tutto quello che prendevi la maggior parte lo davi comunque alle autorità superiori, e quello invece che ti restava, se ti bastava, te lo tenevi, se no niente. Quindi è una condizione di servo all'interno di un sistema, tu dici che è feudale. Allora, intanto vi faccio una domanda, che è questa. Quale articolo, voi fate se volete anche la nostra ricerca con il cellulare, in quale articolo della Costituzione si parla delle tasse? Andatela a cercare chi vuole, e magari leggiamo l'articolo della Costituzione dove si parla di come ripartire bene il peso del fisco tra le persone. C'è qualche articolo nella Costituzione, andate a cercare qual è l'articolo e poi semmai lo leggiamo. Quindi tu ci stai dicendo, Flavio, che diventa patologica una forte imposizione fiscale, una fortissima imposizione fiscale. Quindi anche qui c'è un argomento importantissimo. Prego. Volevo dire, spero non sia sbagliato, il fatto è che appunto è come un circolo vizioso, perché le tasse sono alte, molte persone così lavorano in nero, però chi le paga ce la mette comunque sempre il stesso. Quindi cioè, è tutto appunto un ciclo. Non è così semplice quella da portare indietro una volta iniziato. Mi ricordi come ti chiami? Sofia Pibre. Ecco, sentite cosa ha detto Sofia Pibre, ha parlato di un circolo vizioso. Prova a ripeterlo, insomma, nelle sue. Cioè, siccome appunto come ha detto Flavio, magari c'è una tassazione molto alta. A sua volta molte persone cercano di lavorare in nera proprio per evitare di pagare, però magari chi invece è a regola, quindi paga tutte le tasse, ovviamente il prezzo diventa sempre maggiore, perché comunque lo Stato deve avere, penso, una certa somma annuale. Esatto, sì, quindi magari dal fatto che le tasse sono patologicamente troppo alte e mal ripartite, allora ci sono tutta una serie di fenomeni che accadono all'atere. Cioè, scusa, sì, però volevo dire una cosa. Aspetta. Si escogitano, cioè, dei sistemi, ecco, per evitare di pagarle. Quindi lei sta parlando dei lavoratori in nero. È importante chiedersi chi sono, in cosa consiste il fenomeno. Poi bisognerebbe essere bravi ad andare a quantificarlo il fenomeno, no? A utilizzare per esempio l'Istituto di Statistica Nazionale, l'Istat, andare a vedere ma quanto è grosso questo fenomeno, quante persone lavorano in nero, quali sono le conseguenze e così via. E lei parlava poi anche di un circolo vizioso importante, no? Sofia diceva, va a finire che questa cosa poi cresce su se stessa. Ok, sentiamo altri prima di ascoltare te. Aspetta, aspetta Flavio, prego. Io proprio, secondo me un problema è che non valorizziamo il nostro paese, perché secondo me l'Italia è uno dei paesi più belli del mondo, con tutte, diciamo, la natura, tutte le opere, tutte le sculture che abbiamo, non è valorizzata così tanto. Se non mi sbaglio l'Italia è il paese con più opere che sono riconosciute dall'UNESCO. Sì. Secondo me non è valorizzato bene, perché potrebbe essere anche uno dei paesi più importanti del mondo, perché con tutta la bellezza che c'è, però non riusciamo a valorizzarlo. Sì, anche dal punto di vista, insomma, della storia del nostro paese al centro del Mediterraneo. Allora, vi direi, anche qui c'è un articolo nella Costituzione, magari qualcuno lo cerca e lo leggiamo, che è l'articolo 9, dovrebbe dire. Sì, 9 è quello dell'articolo 53. Ok, allora, ora grazie per questa... Il tuo nome me lo ricordi? Giulio Alescio. Alescio, sì. Allora, grazie Giulio per questa... perché è estremamente importante quello che dici, no? Cioè, non riusciamo a valorizzare il paese in cui viviamo. Magari lasciamo, come si diceva prima, opere importantissime, architettoniche, storiche, culturali, eccetera, senza manutenzione. E di nuovo anche qui potremmo fare le considerazioni di prima. Magari ci sono persone in grado, per formazione, che si sono formate in questo senso e non riusciamo a dargli, pensate, non lo so, qualcuno che si è formato come restauratore, no? Fatto tutto un percorso e poi cosa succede? Che lui se ne va all'estero e qui da noi tutte quelle opere storiche, architettoniche, monumentali, ma anche culturali, pensate a quanto viene sprecato negli scantinati dove si trovano opere lasciate marcire, no? E quindi magari questa persona che si è formata poi se ne deve andare a cercare lavoro all'estero. Ecco. Allora, chi è che voleva intervenire? Sì, vogliamo leggere l'articolo 9 e poi tu avevi trovato l'articolo 53. Allora, prima sentiamo l'articolo 9. Io ho trovato la 53. Allora, chi ci legge l'articolo 9? Qualcuno che ci legge l'articolo 9? E poi passiamo a leggere il tuo. Vai. Molto lentamente, non è lunghissimo. Poi ultimamente si è intervenuti mi pare sull'articolo 9. Prego. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica, tutela il paesaggio, il patrimonio storico e artistico della nazione, tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. Ecco, vedete, allora facciamo una cosa, ciascuno con il proprio cellulare, così lo utilizziamo in maniera più dignitosa. Scusi di nuovo. Prego. Di zia Rosario. Ditelo che si era dimenticato, mi ci fai stare scendi da tutto prezzo. Allora, facciamo così, ciascuno si metta davanti l'articolo 9 e ve lo leggete con molta calma. Se voleste commentarlo, guardando un articolo è importante interpretarlo, capire bene cosa si vuole dire e vedere quanto quell'articolo ha trovato applicazione. Come sapete la Costituzione è la legge più importante che abbiamo, anzi è la legge delle leggi. Le leggi ordinarie devono essere conformi alla Costituzione. Ok? Costituzione è un po' come la struttura stessa dal punto di vista giuridico del nostro paese, un po' come se fosse il DNA del nostro paese dal punto di vista delle leggi, no? Tanto che c'è una corte, si chiama Corte Costituzionale, che giudica se le leggi ordinarie siano conformi alla Costituzione. Purtroppo vi dico subito che negli ultimi tempi la Corte Costituzionale è intervenuta poco rispetto a leggi che sono palesemente non costituzionali, contro la Costituzione. Va bene. Solo lì bisogna andare a vedere in quale modo, cioè e quando interviene la Corte Costituzionale. Poi, come sapete, anche il Presidente della Repubblica interviene, controlla. E anche lì bisogna capire quando il Presidente della Repubblica fa il suo mestiere, d'accordo? E quando invece omette di farlo. Allora, leggetevi questo articolo e facciamo anche questa operazione. Cerchiamo di capire cosa ci vuole dire secondo voi e se viene o meno applicato. Cioè, leggete l'articolo, lo confrontate con tutto ciò che avete intorno. Ecco, cosa che abbiamo cominciato già a fare. Invito a intervenire nella ricerca un po' tutti. Allora, chi vuole intervenire? Clelia, tu cosa ci dici? Ciò che le generazioni passate, quindi parliamo dei nostri genitori, dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, eccetera, no? E il loro lavoro, l'amore che hanno messo per il nostro paese è un po' come se venisse bistrattato, non valorizzato e lasciato nel degrado spesso, lasciato perire nel degrado. Altri che intervengono, quali aspetti di questi articoli vi sembrano importanti in particolare? Allora, tra parentesi c'è scritto tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche l'interesse della futura generazione. Cosa significa secondo Quindi, te? Quindi diciamo che si impegna la Repubblica Italiana a cercare un benessere per le future generazioni, ovvero per quello che ci sarà dopo di noi e per quello che sarà il mondo dopo di noi. Poi diciamo che se continuano questo passo non credo si potrebbe sia un po' applicare questa cosa, perché siamo arrivati agli estremi enormi in questo periodo. Sì. Quindi Vincenzo, tu dici la futura generazione è importantissima, perché chi sono? Sono anche i nostri figli, no? I figli dei figli, figli dei nostri figli. Qui la domanda è: che mondo lasciamo ai nostri figli e ai figli dei nostri figli? Dobbiamo lasciare un mondo degno, cioè magari migliorato, ma non peggiorato, non consumato. Quindi è molto importante questo aspetto. Altri che vogliono intervenire su... Prego. Ad esempio, ci ha messo tutela del paesaggio e il patrimonio storico e artistico della nazione. Io comunque credo che ci sono molte opere d'arte, ad esempio, che vengono rovinate da quelle che possono essere graffiti, disegni. In questo modo, ad esempio, lo Stato comunque non si impegna più di tanto ad intervenire su questa cosa, ma anche alcune opere che potrebbero essere ristrutturate a volte vengono lasciate lì, tanto tra virgolette non importa più a nessuno di quello che andiamo a vedere, quando in realtà comunque sono cose importanti che hanno segnato sempre la nostra nazione. Sì, anche perché dovremmo, che qualcuno potrebbe dire, ma non sono cose vecchie, che ce ne facciamo? Qualcuno potrebbe dire, no, che ce ne facciamo di queste opere? Magari dobbiamo spendere tempo, energia a tenerle. Ecco, ma questa è una domanda importante. Qual è secondo voi il ruolo del, appunto, di questo patrimonio artistico, monumentale, culturale che c'è alle nostre spalle, no? Qual è il ruolo di tutto ciò? Perché addirittura c'è un articolo della Costituzione che vuole tutelare. Ecco. Poi cosa significa intervenire sulla tutela, la manutenzione? Sapete che anche la cultura scientifica è importante, finalizzata alla tutela. Non so, pensate al fatto che attraverso la radiazione elettromagnetica io posso guardare dentro una grande opera d'arte, vedere gli interventi successivi che sono stati fatti nel corso del tempo, guardare più in profondità, no? Attraverso la fare i raggi X, ma non si utilizza soltanto la radiazione X per guardare dentro l'opera, vedere i vari interventi, capire anche, pensate alla chimica, no? Vedere dal punto di vista chimico come intervenire per stabilizzare quell'opera e così via. Naturalmente questo anche per i grandi edifici storici. Ecco, ma qualcuno potrebbe dire, ma che ce ne facciamo? Non è roba del passato? Non conviene spianare tutto e costruire edifici nuovi eventualmente? Anche qui ci domandiamo a cosa serve questo patrimonio artistico, storico, monumentale, culturale, eccetera. Prego. Perché infatti, come ha detto lei, appunto, lo Stato non tutela in realtà al 100% le opere, e infatti come si può vedere anche in Piazza Fontediana ci sono i mosaici, però in primis sono le persone a buttare le cartacce o qualunque cosa, quindi secondo me la tutela non è fatta solo, cioè non solo non è applicata dallo Stato ma anche da noi stessi. Sì, allora quando lui ha detto la Repubblica Italiana, no? E poi c'è la parola Stato. Allora io vi chiedo, ma chi è lo Stato? Chi è la Repubblica Italiana? Perché è molto importante quello che tu ora stai dicendo, Sofia, no? A commento di Noemi, delle cose che importantissime che ha detto Noemi. Ma io vi chiedo, ma chi è la Repubblica Italiana? Chi è? È qualcosa che è fuori di noi? Come giusto ci dovrebbe appartenere? Eh? Come giusto ci dovrebbe appartenere? Ecco, ci dovrebbe appartenere. Però diciamo che la voce del popolo vale nulla, si vuol dire. Res pubblica. Praticamente dovrebbe coincidere con i cittadini italiani. Qualcuno poi cerchi l'articolo 1 della Costituzione, così lo diciamo. E poi non dobbiamo dimenticare l'articolo 53, sì. Allora, l'articolo 1 cosa dice? L'Italia è la Repubblica fondata sulla sovranità, appartiene al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. Esatto. Quindi la sovranità appartiene al popolo, l'Italia è una repubblica democratica. Poi c'è quel fondata sul lavoro, cioè si erge, è fondata. E, diciamo, i suoi pilastri quali sono? Le sue fondamenta quali sono? Quali sono? Il lavoro. E capite come questo sembra in contraddizione già con tutte le prime osservazioni che avete cominciato a fare, ha cominciato Flavio, eccetera, no? Fondata sul lavoro. Cosa significa? Che il benessere comune, il bene comune, l'interesse di tutti, come lo otteniamo? Con il lavoro di tutti. Ma capite subito, vediamo una contraddizione fortissima. Se noi man mano che ci formiamo per poter dare il nostro contributo lavorativo a tutti i livelli, secondo la nostra specifica vocazione, poi leggeremo l'articolo 3 che è importantissimo, se poi non siamo in grado, perché come avete già detto siamo costretti a emigrare, ecco, allora in quale situazione ci troviamo? Quindi qui dovrebbe nascere una domanda importantissima. Ma come mai ci troviamo in questa situazione? Ecco, ci viene detto che non ci sono soldi, che siamo poveri. Mentre finora avete detto che siamo ricchi. Qualcuno ha detto Clelia prima, importantissimo, ma anche altri, lui lo diceva, Vincenzo, cioè abbiamo un patrimonio enorme, il nostro paese è ricchissimo dal punto di vista naturalistico, storico. Dovremmo riuscire a focalizzarci su qual è la ricchezza all'interno della quale viviamo, nel sud, nel nord, nel centro, ovunque nel nostro paese c'è una ricchezza importantissima. Ma dappertutto, sia culturale che alimentare, che tutte cose. Cioè noi siamo un paese bellissimo, però nel nostro paese prima di tutto mancano le istituzioni, manca la manutenzione di diverse cose, quelle strade, le luci. Noi andiamo a dare circa il 60% di tasse al nostro Stato, ma comunque non vediamo un miglioramento. Non vediamo un miglioramento delle strade, non vediamo un miglioramento delle scuole, non vediamo un miglioramento degli ospedali. Vedi che mia bisnonna, è morta l'anno scorso. Ma non è morta perché non c'era niente da fare. È morta perché noi abbiamo delle istituzioni, degli ospedali qua in queste zone, soprattutto nella provincia di Ragusa, che non mi fanno schifo di più, perché mia nonna l'ha portata a Vittoria e non c'era il macchinario. A Ragusa l'hanno portata, a Ragusa non si poteva perché a Ragusa l'hanno portata prima a Vittoria per fargli un determinato controllo con un macchinario che non sola. A Vittoria gli hanno fatto questo controllo, gli hanno individuato il problema, l'hanno portata a Ragusa, dovevano fare intervento, non l'hanno potuto fare perché non avevano le cose a disposizione, l'hanno portata a Catania. Arrivata a Catania e i medici hanno detto non si può fare più niente perché ormai è troppo tardi. E mia nonna poi si è dovuta passare, mia bambina si è dovuta passare gli ultimi mesi della sua vita in una casa di riposo come un rinocista vegetale. La cosa più brutta che lei potesse fare, considerando che ancora 85 anni, si svegliava alle 5 di mattina per andare a fare il pane per circa 6 famiglie, perché eravamo comunque siamo una famiglia numerosa dalla parte di papà. Mia nonna non ha mai avuto niente. Per un ictus, mia mamma poteva essere curata in tempo, e questo non è potuto succedere perché purtroppo tutti i soldi che noi versiamo allo Stato, se li tiene lo Stato, non è che li usa per migliorare le istituzioni che noi abbiamo, no, lo Stato se li tiene, e quindi la maggior parte delle persone in Italia pensano che non ha senso essere le tasse se poi non deve avere dei risultati. E quindi secondo me ci sono quelli che iniziano a lavorare nero, perché si inizia a lavorare nero, perché se tu paghi le tasse non hai nessun miglioramento, allora non ha senso che paghi. paghi le tasse, arricchisci e lasci le altre persone. E allora devi lavorare nero oppure devi prendere se ne fanno, perché non funziona. Purtroppo il nostro sistema è intaccato dagli usurai e da quello che sono i politici, che se non soltanto sono. Cosa, cioè, anche nelle famiglie del mio zio che doveva essere grato per una cosa, però qua in giro c'erano abbastanza macchinari per farlo, quindi doveva essere andato a Milano ha detto che non avevano questi specialisti per questo problema, è stato tra in Germania, fino in Germania hanno detto che era troppo tardi e poi dopo l'anno. Grazie Gianni, ce lo vuoi leggere quell'articolo a proposito di tasse? Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Allora, mettetevelo davanti con il vostro cellulare, come potete, e cerchiamo di capire cosa ci vuole dire. Per esempio quelle due parole, capacità contributiva, cosa vogliono dire? È informato a criteri di progressività, cosa vuole dire? Aspetta, diamo un po' di tempo che ciascuno possa pensare. Ma magari la prossima volta che facciamo un laboratorio di questo tipo, gli articoli li proiettiamo qui alla lavagna. Sì, aspetta solo un attimo. Ecco, io do sempre la precedenza nei laboratori, alla parola la do a chi alza la mano, anche se l'ha alzata dopo. Ma ancora non ha parlato. Allora, in questo caso darei la parola a lui, prego. Allora, praticamente penso che lo Stato al momento usa, diciamo, una sorta di, diciamo, al momento anche ci sono queste spese che stanno diventando sempre più alte al giorno d'oggi, poiché c'è la guerra in Ucraina e quindi, diciamo, con il prezzo del gas che aumenta, oltre a questo anche il Covid ha aiutato quindi questa crescita. Diciamo che il Stato non si rende conto della condizione in cui viviamo, quantomeno la condizione anche sociale e, diciamo, economica in cui viviamo noi famiglie. Secondo me dovrebbe incentivare, diciamo, molte enti locali, molte istituzioni anche dal punto di vista sociale, anche politico, cioè anche economico, perché al giorno d'oggi se sono sentiti parlare, ma sono davvero pochi le istituzioni che, diciamo, no, affrontano questo problema. Per me lo Stato dovrebbe incentivare, dove, diciamo, ancora al giorno d'oggi sono queste accise secondo me, diciamo che aumentano inspiegabilmente, inutilmente il prezzo, diciamo, anche del costi grano, energetici. I costi energetici, anche persino anche del grano, infatti se appena inizia a aumentare il grano inizia a aumentare tutto, perché è la fonte primaria per eccellenza. Il grano, diciamo. Ah, il grano, sì. Ok, sì. Allora tu hai detto delle cose importantissime. Mi ricordi come ti chiami? Giovanni, no? Giovanni ha parlato anche della nostra partecipazione belligerante, diciamo così, alla guerra che c'è in atto ora in Ucraina, e le sanzioni, lui diceva, no? Cioè il gas, il fatto che ora i costi dell'energia sono altissimi. Allora noi dovremmo chiederci, tra l'altro in fisica affrontiamo la questione energetica in tanti modi diversi, dovremmo chiederci cosa succede quando l'energia manca all'interno di un paese che è di antica industrializzazione, no? Come il nostro. Quindi cosa succede quando l'energia manca oppure costa troppo? Cosa accade? Potremmo chiederci, partire da una domanda, cosa accade in caso di blackout energetico? Avete sentito dire che ora si parla di razionalizzazione dell'energia. Ecco. E quindi come questo poi incide sul costo della vita, come ci stava facendo capire prima. Come Giovanni ci stava facendo capire prima, no? Come incide sul costo della vita e sulla qualità della vita di tutti noi. Quindi, cosa c'è scritto nella Costituzione a proposito della guerra? La Costituzione è, ricordate che la legge delle leggi, è arrivata dopo due guerre mondiali, la Costituzione italiana, no? Dopo la seconda guerra mondiale, nel 1948, è stata varata la Costituzione ed è il prodotto più virtuoso anche della resistenza antifascista, la nostra Costituzione. Quindi se qualcuno trova un articolo da leggere a proposito della guerra, se lo trovate poi lo leggiamo ed è importante riflettervi sopra. Prima abbiamo toccato l'articolo 1 e c'è una contraddizione che qualcuno di noi, di voi, ha subito notato, no? Diceva giustamente Massimiliano: la sovranità appartiene a chi? Al popolo. Allora dovremmo, è scritto nel secondo comma del primo articolo, cosa significa la sovranità appartiene al popolo? Nel primo comma c'è scritto, l'Italia è una repubblica democratica, fondata sul lavoro. Cosa significa la sovranità appartiene al popolo? Che sono domande fondamentali. Ricordatevi, quando parliamo della Costituzione parliamo appunto di quello che è la struttura portante della giuridica del nostro paese e come questa viene violata, perché subito vi siete accorti, siete coscienti del fatto che quella che è la Costituzione è una cosa, quella che è la realtà è un'altra, no? Avete parlato dei tagli nei servizi pubblici, un servizio pubblico per eccellenza, ne ha parlato Giada, ne ha parlato Flavio, che è la... qual è il servizio, un servizio pubblico per eccellenza? Sono i servizi sanitari, no? Quando le persone hanno bisogno, perché si muore di mancato intervento, se ne muore. E invece quello che vediamo sono i tagli ai servizi pubblici. Allora dobbiamo chiederci come mai questo accade. Come mai i tagli ai servizi pubblici? Dobbiamo domandarci perché avvengono. Perché qualcuno di voi ha detto prima, molto importante, ha detto, mi pare fosse Flavio che ha detto, senza i soldi non si può fare nulla oggi. Chi l'ha detto? Se non hai abbastanza soldi non puoi fare nulla. Certamente, se i servizi pubblici non funzionano, diceva Giada, siamo dovuti andare in Germania, in un altro paese addirittura, ma siamo arrivati tardi. Certamente per portare un parente in Germania servono o non servono soldi? Devo pagare. E quanto costa un intervento sul... un intervento importante? Magari devo fare un mutuo bancario per poterlo pagare. Quindi, allora cosa succede? Succede che chi è abbastanza ricco può, diciamo, pagarsi la salute e chi non lo è può anche morire, può soffrire e morire. Mentre il sistema sanitario, come sapete, anche qui dovremmo andare a vedere, ma il sistema sanitario è per tutti dovrebbe essere. Così è nato, con questa intenzione, no? Però via via che si fanno dei tagli ai servizi pubblici, cioè si danno sempre meno risorse, ecco che scadono, la loro qualità scade. Allora anche qui la domanda è: ma come mai non riusciamo, come mai da una parte ci abbiamo persone in grado di lavorare per i servizi pubblici, persone in grado di mettere su un ospedale, personale sanitario formato, eppure gli ospedali, piuttosto che aprirli, li chiudiamo, d'accordo? O ne riduciamo la funzionalità? Ah, che articolo è? Articolo 11. Vai, importante, legge. L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli, come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia in ogni nazione. Promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Per esempio, l'ONU. L'ONU, poi chiedetevi cos'è la nostra partecipazione all'ONU. Allora, il primo comma, chi vuole commentarlo? L'Italia, anche rispetto alla situazione attuale, no? Come ci diceva Giovanni, è conforme la nostra partecipazione co-belligerante in qualche modo alla guerra in Ucraina? Noi cosa stiamo facendo? In Ucraina stiamo mandando armi, sostegno finanziario, quindi spendiamo soldi l'Ucraina, e supporto. Sapete che c'è una legge, la legge 195, che dice che è vietato mandare armi a un paese in guerra, anche vendergliele. Ma noi non gliele stiamo vendendo, attenzione, gliele stiamo dando, che è diverso. Ma anche venderle, andate a vedere la legge 195 sul commercio di armi. Bene. Si possono vendere armi a un paese? Se in guerra no, dice questa legge. Allora noi non le vendiamo, ma le diamo. E naturalmente, se vi venissero in mente delle domande, perché un conto è parlare così liberamente, un conto è ascoltare quello che viene detto nei circuiti, diciamo, televisivi dell'informazione. Anche questa è una problematica di cui dovremmo occuparci. Prego, Giada. Quando ho cercato l'articolo 11, sì. Ho cercato l'articolo sulla guerra, mi ho scontato, Draghi sa dell'articolo 11, ma Draghi sa dell'articolo 11, nel senso lo sta violando, perché Draghi, come sapete, è il presidente dell'ultimo governo in carica. Sapete come funziona uno Stato, parliamo anche di questo, ci sono poteri fondamentali, no? C'è potere esecutivo. Cos'è il potere esecutivo? È il governo, potere esecutivo. Perché si chiama l'esecutivo? Si chiama esecutivo perché il suo compito è eseguire, fare applicare le leggi che vengono concepite normalmente dove? Senato è una delle Camere e poi la Camera dei Deputati. Quindi il Parlamento. Il Parlamento perché si chiama Parlamento? Secondo voi perché si chiama Parlamento? Tipo si discute, si creano leggi, si discute come le leggi le creano. Sì, le leggi. Allora, anche qui sarebbe molto bello domandarci che cos'è una legge. Che cos'è una legge? Ma ci sta dicendo Massimiliano, e il Parlamento è, diciamo, il potere legislativo della Repubblica, il potere legislativo, il potere di fare le leggi, che poi il potere esecutivo, il governo applica, fa applicare, d'accordo? Ci sono altri poteri importanti, fondamentali? Potere giudiziario, in mano a chi è? La magistratura. Vedete, questi tre poteri devono essere indipendenti l'uno dall'altro. No? Tutti hanno come sfondo la Costituzione. Si muovono, cioè devono muoversi, in completa coerenza con la legge delle leggi, che è la Costituzione. Quindi vedete, stiamo già vedendo l'architettura fondamentale, no? Del nostro vivere in comune, nella che tutti siamo la res publica. Noi non siamo persone da questo punto di vista, siamo cittadini. D'accordo? Cioè è importante la nostra appartenenza alla comunità italiana. Va bene, siamo cittadini. Quando nasciamo non siamo servi, siamo sovrani. Ciascuno di noi, secondo Costituzione, è sovrano. La parola sovrano noi la associamo alla parola re, signore, eccetera. Ecco, ma qui parliamo di sovranità del popolo. Capite la differenza fondamentale? Cioè la sovranità appartiene al popolo. Un pezzetto di questa sovranità, quando nasciamo, ci viene data. Ciascuno di noi è sovrano. Questo viene prima della democrazia, però è una condizione fondamentale per la democrazia. Va bene? D'accordo. Allora, questo articolo ci dobbiamo chiedere quanto è in contraddizione con le cose che diceva prima Giovanni. Allora, sentiamo se ci fossero altri interventi. Altre cose che avete pensato prima. Che su tutto nasce una domanda fondamentale. Ci dicono che non abbiamo risorse finanziarie. Quando approfondite vi dicono sì, ma non abbiamo soldi. Ricordate la questione delle tasse. Non abbiamo soldi, non abbiamo soldi. Ma come? Il lavoro c'è, eccetera. Allora devo poter. Perché devo andare all'estero a cercarmelo? Non abbiamo soldi. Ma come? Ci sarebbe questo, questo e questo da fare, ma perché devo andare a farlo all'estero? C'è stato un terremoto che ha colpito. Perché non lo tiriamo su quel paese? Ci sono le persone disposte a lavorare, ci abbiamo le competenze, la tecnologia, le macchine. Cosa ci manca? Mancano i soldi. Non so se cominciate a intuire che qui c'è un nodo strutturale, fondamentale, perché allora la domanda diventa, capite, ci abbiamo tutto. Abbiamo le tecnologie, abbiamo la gente che sa fare quel lavoro però rimane incompiuto perché mancano i soldi. Allora, è una domanda che non si pone. Stato, ma tu i soldi che noi pigliamo, dove li metti? Come mai? Che soldi? Allora, e quindi qui sì, cominciamo a ragionare anche su come funziona lo Stato, dove. Che tu dicevi prima, ma come? C'è un'imposizione fiscale enorme. Allora qui dovremmo essere bravi a vedere qual è l'imposizione fiscale. E voi avete detto prima, è talmente grande che la gente cerca nel bene e nel male, quando dicono di evitare di pagare le tasse quando sono eccessive. Nel male, quella che chiamiamo evasione fiscale, no? Nel male. Nel bene, per sopravvivere, cerco di non pagare le tasse, perché ne pago troppe. Se le pagassi tutte, dovrei chiudere. D'accordo? Quindi, come diceva prima Flavio, mi pare lo dicesse, ho un'attività, ho la fortuna di che la mia attività funziona, ma diciamo l'imposizione fiscale è talmente alta che se pagassi tutte le tasse, mi vedrei costretto a chiudere. No, ma cioè, non è solo quello, dico io. Una persona, un italiano medio, che comunque lavora, si fa un mazzo tanto per portare il guadagno a casa, la maggior parte dei giorni dell'anno li trascorre a lavorare, da mattina a sera, e poi che cos'è? Per pagare tutte le tasse, cioè non vanno a pagare tutte le tasse, non si può nemmeno permettersi un lusso perché prima deve pensare a sopravvivere. Secondo me le persone che si sono stancate di pagare le tasse, lavorano in nero, un po' lo fanno anche per passarsi qualche lusso, perché è giusto che ci sia, perché i soldi non servono solo a mantenersi al limite tra il non poter portare il pane a casa e il poter portare il pane. Ma i soldi, il lavoro serve per guadagnare i soldi servono per sì fare pagarsi le cose base come mangiare, tutto quello che sono la sanità, la medicina, tutto questo, ma serve anche per passarsi qualche lusso, perché è giusto che ci sia pure quello. Ma poi non si è quasi arriva al punto che chi fa un lavoro medio non riesce nemmeno a fare quello, talmente sono tante le. Importante, no? Come dice Flavio, cosa volevi aggiungere? Cioè, comunque, tipo, a me me ne ricordo sempre i miei genitori, pure i miei nonni, che tipo quando al tempo della linea non era così, poi quando è entrato l'euro è stato un pochettino a peggiorare, perché tipo che sono ogni volta la fate che mi ripetono che se compro qualcosa che costa un po' di più rispetto al normale, mi dico, può essere le lire e tutte le lire. Cioè... Sì, allora anche qui dobbiamo chiederci perché. C'è una contraddizione enorme che ora cerco di portare alla luce, no? Anche da quello che voi avete detto. Quindi da una parte un'imposizione fiscale, un gettito fiscale enorme. Allora uno potrebbe chiedersi a tutti gli italiani insieme ogni anno quanto pagano di tasse? D'accordo? E dall'altra parte abbiamo parlato di tagli ai servizi pubblici. Trasporti, sanità, istruzione, ricerca, investimenti pubblici in generale, se mancano le scuole, le strade, pensate al fatto che nella nostra Sicilia in treno non ci si può spostare, d'accordo? Mentre in altre regioni magari molto di più. E non solo non ci si può spostare in treno, ma pensiamo a quello che ci diceva Flavio sulla condizione delle strade, no? Una delle... Ecco, quindi da una parte un'enorme imposizione fiscale, dall'altra i tagli ai servizi pubblici e poi i mancati investimenti pubblici. Mancati investimenti. Che cos'è un investimento pubblico? Dobbiamo chiederci. Cioè, diciamo tutti insieme decidiamo attraverso il Parlamento e poi il governo che dovrebbe seguire, ecco, che si facciano investimenti pubblici per migliorare la nostra condizione nell'interesse di tutti. Ecco, allora vedete, qui c'è una contraddizione, no? Da una parte si pagano tante tasse, dall'altra i servizi pubblici sono scadenti, sempre più scadenti, si tolgono tasse. Se si tolgono attraverso le tasse, si tolgono risorse. Va bene. Allora, chi è che ha un'idea per dipanare questa matassa? Perché la domanda è, appunto, i soldi vengono allo Stato vengono dalle tasse che tutti paghiamo, questo avete detto. Ma lo Stato sembra che ne abbia sempre pochi. Allora la domanda diventa, ma come mai ne ha sempre pochi se... E poi c'è un'altra domandina, ma cosa sono questi soldi? Cioè dov'è che... chi è che tira fuori i soldi? Questa è una domanda fondamentale. Intanto ascoltiamo Massimiliano. Comunque lo Stato, oltre a prendere i soldi cioè delle tasse, guadagna poi anche da fondi europei. Quindi oltre alle tasse c'è anche questo guadagno. Sì, allora anche qui noi apparteniamo, diciamo, all'Unione Europea. Allora qui dovremmo essere bravi ad approfondire la nostra relazione con l'Unione Europea. Dico subito che quelli molto critici dicono che noi diamo all'Unione Europea molto di più di quello che riusciamo a prendere dall'Unione Europea. E Quindi anche qui dobbiamo guardare anche lo spirito critico, no? Cioè, com'è la nostra appartenenza all'Unione Europea? Cosa significa, com'è fatta, quali sono le leggi che regolano la nostra relazione, la nostra appartenenza all'Unione Europea? Come è cambiato, giustamente già ci ha riferito, di un periodo storico più felice secondo i suoi genitori, in cui c'era la lira e non l'euro. Va bene? Quindi dovremmo anche essere in grado di ricostruire tutta questa trama. Allora la domanda diventa: ma come mai mancano i soldi se paghiamo tasse così alte? E dovremmo aggiungere quello che ci diceva ora Massimiliano. Dice: ma anche lui, secondo Massimiliano, anche l'Unione Europea ci dà contributi anche finanziari, mi pare che lui intendesse. Ecco, dove sta il bandolo della matassa? L'inflazione. Che cos'è l'inflazione? Tra l'altro l'inflazione, ecco, parliamone, perché ha a che fare con la matematica. La tassa valida, cioè forse vedo, per esempio, probabilmente in tempi era nel 20 o era nel 60, oppure era nel 60, nel 70, almeno anche la tassa valida dappertutto, ormai ovviamente non ti possono comprare cose, esci, faccio un esempio, con 40 euro il sabato, la domenica, ti trovi già sabato, metà serata e ti riesci tutti, senza che neanche te ne accorgi. Infatti, perché le collegate ci fanno parte con la lira, diciamo che prima con 500 lire potevi prenderti un panino, l'acqua, il caffè, un gelato, si può dire, con 500 lire. Ora ti trovi a spendere 10.000 per queste cose, quindi la lira. Sì, quindi tu dici l'inflazione. Cioè, come la definiresti l'inflazione? Che cos'è l'inflazione? Intanto ci hai già detto una cosa, ci hai detto: ma il potere di acquisto del denaro che abbiamo è sempre più basso, mi pare che tu questo volessi dire, cioè con gli stessi soldi un tempo lo prendevi di più, un tempo riuscivo ad acquistare di più. Questa è l'inflazione, che un esempio oggi 500 euro sono 500 euro, magari domani quei 500 euro ne vanno 200. Cioè, quello che oggi riesco ad acquistare con 500 euro, domani non ci riesco più come quantità. Magari me ne servono per acquistare le stesse cose, tu mi stai dicendo, magari me ne servono. Ok. Allora, questo potere d'acquisto, quindi, del denaro va a scendere. E dovremmo confrontarlo però con quello che le persone guadagnano, perché non ci sarebbe niente di male nel caso in cui aumentasse gli stipendi in proporzione, no? Allora, vi devo subito dire che prima era così, si chiamava scala mobile, indicizzazione dei salari e delle retribuzioni in generale al costo della vita. Quindi guardate, qui c'entra la matematica, è importante. Si va a vedere in una sorta di paniere, si va a vedere come aumentano tutti i beni di prima necessità, d'accordo? Il costo di questi beni di prima necessità. E cosa si faceva in passato? C'era la lira. E allora si aumentavano di conseguenza in proporzione gli stipendi e i salari delle persone, no? Si parla di stipendi quando ci si riferisce agli impieghi, mentre si parla di salari, nel caso dei lavoratori si parla di più di salari. Bene. Poi questa parola salari, vedete che c'è dentro la parola sale, è importante, uno si potrebbe chiedere: ma che c'entra il salario con il sale? Va bene, si potrebbe chiedere, questo è importante, magari poi una volta ne parliamo. Allora, giustamente ci diceva: ma qui sta succedendo qualcosa di grave, no? I prezzi aumentano, l'inflazione. Ah, vi dico subito che l'inflazione è definita come una derivata dal punto di vista matematico. è la rapidità. Ricordate una derivata, cos'è il coefficiente angolare della retta tangente a una funzione? Ma qui noi, la funzione sarebbe i prezzi, va bene? I prezzi dei beni. I beni sono non solo i, diciamo, le merci, ma anche i servizi, quelli sono i beni in generale, i servizi. I servizi cosa sono? Sono beni non materiali. Se vado da un parrucchiere, lui mi fa i capelli, quello è un servizio. Poi per farli magari ha bisogno di alcuni prodotti, eccetera. No? Allora, che cos'è l'inflazione? È una derivata dal punto di vista matematico, diciamolo, questo che è importante. È la rapidità, la velocità con cui crescono i prezzi. Attenzione che se l'inflazione scende, cosa significa, visto che è una derivata? Vuol dire che i prezzi stanno calando se l'inflazione scende? No, bravi. Cosa significa se l'inflazione scende? Significa che la rapidità con cui i prezzi sta aumentando, no, al contrario, se dico l'inflazione sta scendendo, ma allora i prezzi stanno calando, no, no, la rapidità con la quale i prezzi scendono di rallenta. Bravissimo, sentite Flavio, i prezzi continuano a salire ma meno velocemente, d'accordo? Quando è che invece si parla di deflazione? Quando invece stavolta i prezzi davvero scendono, e se cresce la deflazione sta crescendo la rapidità con cui i prezzi scendono. Bene, d'accordo, così facciamo un po' di matematica. Ah, questa cosa dell'inflazione, se la chiedete a tutti i giornalisti che incontrate, non la sanno, non l'hanno capita. Bene, questo per dire come è poco diffusa la cultura anche scientifica. D'accordo, allora, processo inflattivo, ci diceva prima Giovanni, è in corso, tutti voi lo state vedendo in corso. E Giovanni l'aveva associato anche alla guerra, alla questione dell'energia. Ora io vi farei qui una domanda importante, ma a cosa serve? Noi come la utilizziamo l'energia oggi? E come potremmo utilizzarla, no? Poi c'è un'altra domanda che ora non c'è tempo, ma come, perché non dobbiamo soltanto trovare le cose che non vanno, dobbiamo capirle le cose che non vanno intimamente e dobbiamo trovare dei rimedi. Quali i rimedi possibili? E in questi laboratori che faremo dobbiamo domandarci tutte queste cose, no? Quali i rimedi possibili se vogliamo fare seriamente? Se voi attivate il vostro pensare, guardate quello, interpretate quello che succede intorno a voi, lo subite meno, ve lo dico subito, lo subite meno. Sapete cosa effettivamente sta accadendo e cercate il modo anche di reagirvi. Allora, ci abbiamo delle domande importanti. Come mai sta succedendo che, mentre da una parte... Allora, ci sono tre processi che avete visto in corso. Il primo, avete detto, un'enorme imposizione fiscale e tutti i fenomeni correlati a questo, nel bene e nel male, avete detto. Dall'altra abbiamo visto all'opera i tagli dei servizi pubblici. In particolare abbiamo parlato della sanità, del fatto che questo... che i servizi pubblici che dovrebbero essere... Capite cosa sono i servizi pubblici? È come dire mettiamoci tutti insieme, facciamo una specie di colletta, le tasse, e quindi tutti insieme sarà più facile, perché altrimenti chi la costruisce una strada che va da qui a Milano? Chi la costruisce? Potremmo costruire un pezzo, ma tutta la strada dobbiamo metterci tutti insieme. Gli ospedali, eccetera, un po' come se dicessimo a tutti noi, mettiamoci tutti insieme, ognuno mette la sua parte, così abbiamo la sanità per tutti, di qualità, una sanità di qualità, che salva le vite, d'accordo? Però cioè, abbiamo sentito due episodi di mala sanità, e questo vale un po' per tutti i servizi pubblici, dovremmo approfondire. Quindi da una parte tanti soldi che vanno a finire allo Stato con l'imposizione fiscale, dall'altra i tagli ai servizi pubblici, quindi vedete la contraddizione. Allora ci siamo domandati e abbiamo anche visto tutta una serie di sprechi, lo spreco del patrimonio artistico, monumentale, storico di cui abbiamo parlato, e dall'altra abbiamo visto lo spreco anche di quegli individui che si sono formati. Voi stessi rischiate questo, diventate grandi, adulti e non trovate lavoro. Diceva la fuga dei cervelli, non trovate lavoro. Questo lavoro sarete indotti ad andarlo a fare magari in un altro paese. Magari avete in amore il vostro paese, vorreste dare il vostro contributo, chiamate il vostro paese, ma siete costretti ad andare all'estero. Io personalmente vi dico, sono nato in Australia, perché mio padre negli anni 50 non trovava lavoro in Italia, se n'è andato all'estero. Poi le cose erano cambiate, è tornato, io sono nato in Australia, poi quando avevo 7 anni loro sono tornati, le cose erano cambiate e sono rimasti. E io ho potuto cominciare a frequentare la scuola qui in Sicilia, a Comiso. Bene. E quindi vedete queste contraddizioni. Allora ci siamo anche chiesti, ma i soldi, perché ce ne sono pochi in circolazione? Dove finiscono questi soldi? C'è una cosa che si chiama, facciamo anche un po' di economia, avanzo primario. Quindi io vi lascerei anche con questo compito, capire che cos'è l'avanzo primario. Anche qui l'avanzo primario è una cosa che riguarda le finanze pubbliche, la finanza pubblica. D'accordo? Quanto tempo abbiamo ancora? 5 minuti. 5 minuti, va bene. Allora, spero che vi sia piaciuto, ogni tanto ci permetteremo in lusso nel contesto anche di pensare alla legalità, eccetera, di fare questi laboratori. Naturalmente uno potrebbe dire, ma che c'entra questo con la matematica, con la fisica? C'entra moltissimo, ma c'entra con tutto. Anche quando vi ritrovate a fare un compito di italiano in classe, e se non avete argomenti, se non avete mai pensato, guardate che è solo così che vi viene la voglia di leggere, libri, ascoltare, sviluppare il pensiero critico, diventare attivi nel mondo in cui vivete. Altrimenti penserete soltanto a voi stessi e non è bello, diventate tristi, egoisti. Poi uscite, vi drogate e morite. Insomma, c'è modo di partecipare, c'è modo di essere molto più partecipi, di svolgere un ruolo nella vostra comunità, per voi stessi e per la terra che amate. Non pensate mai di essere sfortunati perché siete nati a Comiso, al sud. Chissà cosa succede al nord che mi sto perdendo. Non vedo l'ora di lasciare il mio paesino e andarmene via da qui. Una volta discutiamo di questo. Discutiamo. Va bene, grazie. Alla prossima. Rilassatevi pure. Thank you.